sarà una domanda di sport. Se vuoi una domanda di calcio, spingi A. Se vuoi una domanda di pallacanestro, spingi B. Se vuoi una domanda di tennis, spingi C. Prego, spingi A, B o C. Ora. Mi dispiace davvero. Davvero, sono proprio spiacente. Casca il mondo, casca la terra, giro giro tondo, casca il mondo, casca, casca la terra, tutti giù per terra. L'ho detto bene, eh? Ah, ma è anche vero, devo continuare con le domande. Andiamo avanti. Mi fa piacere vedere che ti interessa il calcio. Ecco la domanda. Quale dei giocatori di una squadra di calcio può usare le mani? A. Il terzino. B. Il portiere. C. La mezzala. Se non ti dispiace, rispondi A, B o C. Ora. Prendo tempo perché tu hai risposto A, ma sfortunatamente la risposta esatta era B. Quindi hai sbagliato. La risposta non è esatta. Non è esatta. Mi dispiace doverti dare questa brutta notizia. Prego, spingi il bottone delle domande ora. Non hai seguito le mie istruzioni. Non hai spinto il bottone delle domande. Per favore, in futuro, segui le mie istruzioni. Per la domanda numero 4 vorrei sapere se sei un bambino o una bambina. Se sei una bambina, spingi A quando te lo dico. Se sei un bambino, spingi B quando te lo dico io. Per favore, amico, spingi A o B ora. Sembra che si sia rotto qualcosa dentro di me. Fammi provare ad aggiustarlo. Adesso tiro fuori il trapano. Eccoci, tutto a posto. Per essere un robot sono bravo come meccanico. Torniamo agli affari adesso. Mi hai detto che sei una bambina. Ecco una domanda apposta per te. Vediamo se conosci una donna famosa. Chi era Mata Hari? Ti do tre possibilità. Era A, un'attrice, B, una scrittrice, C, una spia. Prego, rispondi A, B o C. Ora. Indovina cos'è successo. Ha risposto A e la risposta esatta era C. Se ti è chiaro il mio discorso, capirai che, secondo il mio cervello di calcolatore, la risposta non è esatta. Hai sbagliato questa domanda e ti auguro di essere più fortunato la prossima volta. Prego, spingi il bottone delle domande ora.